il nostro programma inizia così: allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, non ci sono proprio più. Ho sentito che è brutto centro-sud, invece qui a Milano c'è un sole splendente, quindi evidentemente le cose si invertono. Ma anche cos'è che ci dice che non ci sono più le mezze stagioni? Che le uova, neanche quelle sono più quelle di una volta. Le uova è sceso, secondo uno studio americano serissimo, alle uova è sceso il colesterolo. Ne hanno pensate il 14% in meno rispetto a quelle di un decennio fa, il 64% di vitamina D in più. Quindi pensate, uno voleva fare incetta di colesterolo, niente, serve più neanche le uova, perché sono piuttosto magrine anche le uova. Quindi possiamo dire che vale ancora più il detto, no? Meglio un uovo oggi che una gallina domani, anche perché la gallina chissà domani. Ah, c'è già la gallina, non domani, anche oggi. Vabbè, poi ci pensiamo alla gallina, grazie. E quindi per ritornare invece a noi, sapete che questo è il nostro appuntamento, mio, vostro e poi dell'opinionista estemporaneo che cambia ogni puntata, per raccontarci quali sono state le notizie della settimana e soprattutto per esprimere le vostre libere opinioni sui fatti. Anche questa settimana un'infinità di cose. Intanto ieri la grande festa al Cairo per Mubarak, che finalmente si è deciso, insomma, a mollare la sedia, poi la richiesta di giudizio immediato per il Presidente del Consiglio, varie manifestazioni che ci sono, una il 13 febbraio delle donne in piazza e non solo, che si intitola Se non ora quando, poi oggi c'è una manifestazione, anche ne parleremo, indetta da Giuliano Ferrara, in mutande ma vivi. Vedremo di cosa si tratta di queste mutande. E poi la cronaca con le gemelline scomparse, ancora una volta un uomo che non regge a una separazione, non ammazza la moglie ma ammazza forse le bambine, si spera di no. Poi questo paragone fatto da l'ex, a questo punto, portavoce di FLI a Milano, Tiziana Maiolo, che aveva paragonato poi, insomma, cagnolini, bambini rom sull'educazione, i cani si riescono a educare, i bambini rom no perché fanno la pipì contro i muri. Il 17 marzo, benedetto, è mai possibile che in un paese come il nostro non si riesca a trovare, diciamo, una posizione comune su un anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia? 800 24 00 24. Cosa ne pensate di una di queste notizie o di qualche altra notizia della settimana che vi venga in mente? 800 24 00 24. E devo dire, continuano ad essere attivissimi con i loro neuroni gli ascoltatori e le ascoltatrici anche sulla pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni. Già sono arrivati in settimana dei commenti e potete continuare a farli. Non tanto oggi, insomma, da lunedì, quello che succederà poi per la prossima settimana. Ma per quanto riguarda questa, per esempio, c'è Andrea di Novara che, beh, ironizza un po', mettiamo anche spazio, dice: Silvio, tieni duro tu a Ruby. E vabbè, qui facciamo un po' dell'ironia. Poi Andrea da Venezia che scrive: credo che ci siano altre priorità a proposito del caso Ruby. Penso al caso Clinton con la Lewinsky, alla fine non è successo nulla, ma è stato tutto un bel caso mediatico. E aggiunge: mi piacerebbe che si parlasse anche del giorno del ricordo, l'esodo dall'Istria di circa 350.000 italiani. Infatti, giustamente, due giorni fa, se non sbaglio, la giornata del ricordo. È vero che per un po', dice, i politici hanno voluto tenere un po' nascoste queste cose, gli eventi compiuti dalle milizie titine. Adesso, per fortuna, c'è almeno questo giorno e sono usciti anche tanti libri sull'argomento, per cui questa cosa viene ricordata. Poi, sul 17 marzo, appunto, questa polemica, scuole e lavoro chiusi oppure no? C'è Renzo da Latina che scrive: trovo che sia una polemica strumentale, perché non è con un giorno di festa e di riposo che l'economia dell'Italia, già inabissata in crisi, scrive, cambia. Poi Maria Chiara invece scrive: astenersi dal lavoro ha un grande valore simbolico a proposito del 17 marzo, vuol dire dare il giusto peso a una ricorrenza civile fondante del nostro essere italiani. E poi aggiunge anche questa cosa che vi può essere utile. Scrive poi: scusate, ma avete visto il calendario di quest'anno? Il 25 aprile coincide con la Pasquetta, il 1 maggio è domenica, Natale è domenica, una bella festa per i 150 anni d'Italia, ce la possiamo pure permettere, dice Maria Chiara. Poi sempre lei aggiunge su Facebook il link dell'appello di Margherita Hack sulla manifestazione di domenica 13 febbraio, Se non ora quando, quella appunto indetta dalle donne. Poi sulla questione della frase di Tiziana Maiolo, Monica da Firenze è piuttosto dura, dice: un paragone frutto di una mente malata. Tatiana scrive: evidentemente la signora Maiolo non conosce a fondo Milano, altrimenti saprebbe che la notte le strade si popolano di ragazzi, e scrive anche ragazze, ma mi sembra un po' difficile, ragazzi che per motivi diversi marcano il territorio, ragazze che fanno pipì sul muro, mi pare di non averle viste, ma di ragazzi tanti, di tutte le nazionalità, anche molti italiani. Il fenomeno, dice, è trasversale, sale e trasversale, non si può attribuire a un'etnia in particolare. Poi Stefano invece parla della tassa di un euro sul biglietto del cinema fino al 2014 per finanziare gli sgravi fiscali. Si salvano le sale parrocchiali, dice, tanto che vuoi il cinema costa poco, tassiamolo anche. E poi un altro ascoltatore mette un pezzetto dell'editoriale di Travaglio di giovedì ad Anno Zero, e magari poi con Paolo Corleoni alla parte tecnica dopo lo riacciuffiamo e magari mettiamo giusto così uno stralcio, un inizio. Però intanto vogliamo anche capire tra pochissimo quale sarà l'opinionista estemporaneo, anche se a proposito di politica un'altra notizia è che è iniziato il congresso, il primo congresso di FLI a Milano. E che cosa ha detto, Gianfranco Fini? Ha detto: qui gettiamo il seme perché una primavera italiana possa diventare non solo una speranza ma una bella realtà. Qualcuno ha commentato una cosa del genere. Insomma, ce ne sarà di cose di cui parlare. 800 24 00 24, ma innanzitutto vediamo chi ci supporta in questi commenti liberi di questo sabato. L'opinionista estemporaneo, signore e signori, oggi è Giancarlo De Cataldo. Buongiorno. Caro Giancarlo, buongiorno. Sento molto, buongiorno. Molto militaresco. Come andiamo? Bene, bene. Ho ascoltato la sua scheda introduttiva. La sua di chi? Quale sia l'etichetta del programma. Quindi, va bene. La tua scheda introduttiva. Giancarlo, lasciami un secondo per segnalare, a proposito del giorno della memoria, un libro che si chiama I testimoni muti, che ha scritto Diego Zandel. È un signore istriano nato in un campo profughi a Servigliano da genitori fiumani, e autore, romanziere. Questo libro si chiama I testimoni muti, è pubblicato da Mursia, è un libro molto bello perché il sottotitolo recita Le foibe, l'esodo, i pregiudizi, ed è un libro appunto contro i pregiudizi, cioè non è la solita invettiva sugli slavi cattivi geneticamente, gli italiani buoni e vittime. Un libro complesso che ridà insomma onore, visibilità e conoscenza, e ricostruisce anche storicamente, ma anche con un impatto umano molto forte, quella stagione tragica. Bene, Giancarlo De Cataldo. Sento di consigliarlo. Non era previsto. No, infatti, perché c'è invece il tuo nuovo libro, fra l'altro tu ne hai consigliato un altro, quindi qui se volete c'è scelta. Giancarlo De Cataldo, intanto lo conoscete, è magistrato e scrittore, ha questa doppia anima, diciamo, ma è anche traduttore, autore di testi teatrali, personaggio eclettico, è soprattutto l'autore di Romanzo Criminale, un grandissimo successo al di fuori delle frontiere italiane anche. L'ultimo si intitola I traditori, guarda caso è in qualche modo legato a questo altro aspetto importantissimo di quest'anno e anche notizia di questa settimana, 17 marzo, 150 dell'Unità d'Italia. Tu ripercorri un po' alcune un romanzo insomma sul risorgimento emerge da questo romanzo che certi caratteri peculiari della vita pubblica non sono molto cambiati. Io sono andato a studiare il risorgimento perché fui indotto, stimolato da Martone al tempo in cui si pensava, e poi si è realizzato il film Noi credevamo. Sì. Quindi nel 2003, quindi non mi sono inserito sull'onda delle celebrazioni, anche perché si tratta di un'onda piuttosto miserina a quanto mi pare di capire, ma ci siamo mossi insieme a Mario molto prima e siamo andati alla ricerca delle nostre radici. Anch'io, quando mi hanno coinvolto in questa storia, pensavo al Risorgimento come una stagione morta, di vecchi, di patrioti polverosi. Invece ho scoperto erano tutti giovani, erano tutti giovani, erano tutti entusiasti e tenacemente convinti della necessità del cambiamento. Erano giovani italiani, ma si potevano declinare anche come giovani europei in un'Europa immobile, governata da dei vecchi tiranni rimessi sul trono a calci dopo la cacciata di Napoleone, che remavano contro la storia. Per cui insomma il Risorgimento italiano, che è una costola del 48 europeo, di questo grande secolo dinamico che è stato il XIX secolo, era più che altro una necessità, la necessità di che la storia progredisse liberandosi dalle incrostazioni insopportabili del passato. Qui, questo è il libro di Giancarlo De Cataldo, L'ultimo, I traditori, pubblicato da Einaudi. Cominciamo a sentire anche le voci e le opinioni delle ascoltatrici e degli ascoltatori all'800 24 0024. Diego da Udine. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, Diego. Buongiorno De Cataldo, complimenti. Buongiorno. Sì, io volevo dire questo. Sono partito stamattina alle 7 per andare da Udine, per andare a Milano a sentire Ferrara dal Verme, adesso me ne sto tornando indietro. Oggi pomeriggio, no? Doveva essere dal Verme. Sì, no, stamattina. Ah, stamattina, sì, sì. E devo dire che al di là di una sala strapiena con tanta gente fuori, di età media un po' elevata, non c'erano molti giovani, credo che sia l'unica cosa un po', l'unica nota un po' stonata, però dopo settimane e settimane di ragionamenti fatti sulle cose di cronaca che conosciamo, e sullo spioncino della serratura e quant'altro, finalmente un Ferrara, diciamo, esuberante, semmai si può pensare che è straripante nonostante le sue dimensioni, straripante in tutti i sensi, terra, sì, sì. Ci ha riportato a parlare delle cose che servono e che Berlusconi deve e dovrebbe fare. Dicene due, Diego. Governare l'Italia, occuparsi del governo d'Italia e tornare a essere il Berlusconi che abbiamo conosciuto negli anni 94, poi 2001 e poi prima 96, cioè seguire il processo di liberalizzazione, di rivoluzione liberale del paese, di cambiamento del paese che solo una persona estranea al sistema politico in questo paese può riuscire a fare. Diego, dimmi una cosa, scusa se mi incuriosisce, visto che se ne è parlato tanto, c'era tutto questi tre fili di bucato, tre fila con le mutandine delle donne attaccate? C'era una serie di mutande appese. Senti, ma quelle, voglio sapere, quelle maschili c'erano, perché solo i perizomi, le mutandine da donne, cioè dei bei boxer? C'erano anche mutande maschili. Ah, c'erano mutande maschili. Sì, c'era un po' di tutto, cioè, era una specie di stenditoio variopinto, colorato. No, ognuno portava le sue o erano già lì tutte attaccate? No, c'era mutande, già allestito. Infatti alla fine è andato a riprendersele. Ah, beh, se le messe lì al momento? No, spero di no, insomma, ci fosse. No, spero no, perché insomma. Comunque ha detto delle cose interessanti Ferrari. Molto coinvolgenti, e finalmente un ritorno alla, diciamo così, al ragionamento che può piacere o non piacere, in questo caso mi piace, sulla vita politica italiana, sulle prospettive, sulle problematiche, che ci riporta alla politica vera, quella che serve per fare le cose. Il titolo era In mutande ma vivi. In mutande ma vivi. Quindi tutti in mutande, direi anche molto vivaci dal punto di vista della dialettica del confronto, sì. Ho capito. Molto interessante. Grazie molto, Diego, molto che ci hai fatto anche un po' da corrispondente, diciamo, la manifestazione che appunto Ferrara ha indetto un po' come contromanifestazione contro quelli che ha definito i puritani del Palasciarpa di sabato scorso, invece che era più una manifestazione del centro-sinistra per chiedere le dimissioni di Berlusconi. Stavo cercando, vediamo se lo ritrovo, uno spunto che avevo da queste parti, per il momento non lo ritrovo, però Giancarlo, tu sulla questione del 17 marzo, cosa ne pensi? Bisogna stare a casa, perché se qualcuno avesse, se qualcuno sapesse se già hanno deciso che bisogna fare il 17 marzo, sembra che ancora non sia lì sospeso, diciamo tra un mesetto. Oggi c'è stato un intervento, diciamo, chiarificatore, Giuliano Amato, che è presidente del Comitato per le Celebrazioni, precisa che c'è l'istituzione di una ricorrenza nazionale, ma non di una festa, con abolizione del lavoro. Quindi quella credo che sia una decisione che o andrà presa. Quindi è una ricorrenza e non una festa, anche se proprio non ieri. Non è una festa non necessaria. Noi nei nostri uffici abbiamo ricevuto comunicazioni invece di non tenere udienze. Credo che sia. La situazione pare un po' confusa, perché proprio ieri su Repubblica, leggo il titolo, il 17 marzo tutti a casa, pronto un decreto, la proposta di Ignazio La Russa, Napolitano dice è d'accordo, e invece Gelmini, così in contrasto con i presi, dice scuole aperto. Secondo me la risposta definitiva non è stata data, mi pare un po' bizzarro, ecco, che non si riesca a dare. Credo che sia l'unica soluzione razionale. Io... A me, devo dire, queste voci contro la festa un po' fanno sorridere, no? Cioè, bisogna andare a lavorare perché, non so, immagino che improvvisamente gli italiani, a partire dalla Confindustria, il modello Marchionne, eccetera, hanno riscoperto una passione per il lavoro che non ci viene così, e di solito così attribuita, no? A livello mondiale. Io leggevo in una statistica che gli italiani lavorano anche più di tanti altri lavoratori dei paesi europei, però Giancarlo, diciamo che forse al di là di tutto si possono capire le ragioni della produttività, si possono capire altre questioni, secondo me, visto che era solo quest'anno questa festività, il 17 marzo, forse 150 anni d'Italia, una bella festa da ricordarsi sempre, diciamo, la meritavano. Comunque, Pensavo, prima di sentire gli altri ascoltatori, Stefano da Milano, Antonino da Palermo, eccetera, mi pare, Giancarlo, visto che tu sei magistrato, ultimamente sono molto nell'occhio del ciclone, no? A fare rubi, ma anche altre cose, chi li sostiene, chi li vorrebbe... insomma, diciamo, indicare al pubblico ludibrio, diciamo così, tra virgolette. E ultimo ieri un'agenzia dell'ANSA leggeva una dichiarazione di Sgarbi a proposito del suo presiedere il polo, la soprintendenza del polo museale di Venezia. La Corte dei Conti circa la sua nomina continua a dargli lo stop. Allora lui che cosa ha detto ieri? Dice: resto al mio posto, anzi vedrete che mi verrà affidato a breve un incarico ancora più importante. Dice Sgarbi: quello dei giudici è un capriccio, li piegheremo fino a far passare loro un periodo di lacrime e sangue. C'è questo, tutta questa dolcezza di dibattito pubblico, insomma, diciamo. Ma guarda, io mi attengo alle deliberazioni, al profilo decisamente istituzionale, molto composto, che ha scelto l'Associazione Nazionale Magistrati. Osservo che per esempio in Francia il presidente Sarkozy ha mosso una larvata critica ai giudici francesi in occasione di un affare, il cosiddetto affare Laetitia, e quelli sono scesi immediatamente in sciopero il giorno dopo, prima a Nantes, poi in 50 distretti, poi in tutta la Francia. Tutti insieme, tutti immediatamente, senza consultazioni, senza niente. Queste le reazioni che hanno... Se Sgarbi avesse detto quelle cose, diciamo, avesse rivolto quegli insulti, perché quelli sono insulti e minacce, a me personalmente, io ovviamente avrei abbandonato, come dire, il profilo istituzionale, mi sarei difeso come qualunque essere umano in un'alternativa che va dalla tradizionale sfida a duello. Non si può fare, ma era un mezzo estremamente civile per risolvere alcune controversie, fino alla richiesta di un dibattito pubblico, fino a sfruttare conoscenze nei media, eccetera. Cioè, uno non se la può tenere sempre, voglio dire, anche perché gli italiani sono fatti in modo molto particolare. Se uno se la tiene ed è sempre signorile, alla fine viene considerato un fesso. Senti, sentiamo gli altri ascoltatori, che sicuramente non sono fessi. All'800 24 00 24 andiamo un attimo più verso sud, c'è Antonino da Palermo. Antonino. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Niente, io volevo intervenire su questo discorso che mi sembra anche molto interessante e vorrei ribadire una cosa. Quale? Tutta questa polemica sul nord, sul sud, sulla provincia autonoma di Bolzano. Ah sì, c'è stato anche quello scontro. Io credo che sia un po' il segno dei tempi di bassa marea, di una politica confusa, di una politica che non mira al problemi veri del nostro paese, della sua posizione all'interno dell'Europa e in generale nel bacino del Mediterraneo e così via. Io credo che oggi c'è più bisogno d'Italia che mai. Io credo che questa opportunità del 17 marzo è un pretesto eccezionale per ridare senso a un paese smarrito in base al berlusconismo, che io assolutamente non condivido, e in questo senso vorrei anche lanciare un invito ai dirigenti del Partito Democratico e del centro-sinistra in generale per prendere posizione chiara, netta su questa vicenda, perché gli italiani che si sentono italiani, l'Italia è piena al nord come al sud, e quindi tutto questo problema di confondere i problemi regionali con i problemi dello Stato italiano, dell'unità nazionale, proprio è un problema, come dire, ribadisco, un segno di tempo, ed è una cosa di basso profilo. Quindi politico, sei a favore, cioè sei a favore delle celebrazioni. Il livello, cioè. E poi il problema del lavorare sì, lavorare no. Ma oggi il mondo è pieno di tour, si fanno anche le domeniche, si fanno a Ferragosto, si fanno a Natale, ma non esiste questo problema. Non esiste non problema può esistere questo problema, questa polemica così accesa. Grazie Antonino, chiarissimo il tuo pensiero, anche piuttosto, insomma, appassionato. Ma adesso, a proposito di passione, leggo su Repubblica.it subito il primo titolo: governo, il monito di Napolitano, stop a tensioni o legislatura a rischio. Allora io direi di fare un collegamento eccezionale, sapete che ogni tanto mi piace introdurre delle cose nuove, io direi colleghiamoci subito per sentire un po' il clima col Parlamento, prego. No, vabbè, chiudi il collegamento, sta arrivando qui di tutto, grazie, insomma, tra poco magari ci riproviamo, perché no, a volte dei momenti particolarmente vivaci, e dopo il Parlamento direi di collegarci, prima di sentire gli altri ascoltatori, con, sempre per avere così più punti di vista, con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Cose turche si vedono qui da Marte pure questa settimana, anche se non proprio in Turchia. Ecco, puntando brevemente invece il telescopio, per esempio, verso l'Egitto, si è visto che salvaguardare la nipote di Mubarak ha evitato sì l'incidente diplomatico, ma non la disfatta di Mubarak stesso. Ecco, aveva evidentemente guai più grossi di una nipote un po' birichina. In ogni caso, la poltrona è venuta via. Tira, tira, tira, niente, non si scollava da sotto il sedere di Mubarak, questa benedetta poltrona. Evidentemente non avevano usato, sapete, il Vinavil, no? Quello per il bricolage, per il cartoncino, no, ma una colla ben più forte di quelle che quando attacchi le dita è finita, che è un po' il problema, diciamo, di tanti potenti, no? Quello della colla troppo tenace con cui viene incollato il posteriore alla poltrona sulla quale siedono. Forse hanno paura di scivolare, ecco, da questa poltrona. È un po' anche, si potrebbe associare a un'ansia da prestazione, ecco, così si potrebbe dire, che hanno del resto tanti uomini, via, che ricorrono a mezzi rinforzanti o anche a volte a mezzi facenti funzione, diciamo, letto come in altri ambiti. Vedi i ciclisti come Ricco, che invece di tenere, che so, il latte, il sedano, la pummarola nel frigo, si tengono le sacche di sangue con le quali ubriacarsi prima di una gara, da cui si dice avere sangue freddo quando per l'appunto lo si tiene in frigorifero. E sempre a proposito di ansia da prestazione maschile, in questi giorni, mentre il governo apre alla destra, il partito La Destra di Storace, Teodoro Buontempo, assessore alle politiche per la casa della Regione Lazio, dice perentorio: diremo no all'iscrizione di gay nel nostro partito La Destra. Perché? Uno si può chiedere legittimamente perché. Perché, spiega Buontempo, daremo un cattivo esempio all'immaginario collettivo. Cattivo esempio all'immaginario collettivo, dice. Scusate, laggiù, su suolo italico, qual è l'immaginario collettivo attuale relativo alla politica da non turbare? Everybody bunga bunga party! Ecco, effettivamente è meglio non turbare questo immaginario collettivo con cattivi esempi di persone che fanno politica ma amano persone dello stesso sesso. E sempre restando sull'ansia da prestazione, sul super macho in esercizio effettivo permanente. Ecco, appunto, la vera notizia è questa, in realtà. Un uomo, un 66enne di Milano, ha visto violare la sua privacy nel vivere serenamente la sua sessualità, non, attenzione, da intercettazioni, non da scatti fotografici indiscreti, non da spie russe camuffate da bollitori, bensì da un gatto. Ebbene sì, l'uomo, ritenendosi esasperato e reso a suo dire malfunzionante, ecco, dall'eterna presenza del gatto nella stanza nuziale, ha trascinato il felino e la moglie stessa in tribunale, chiedendo che il baffuto animale fosse sfrattato per sempre. E davanti ai giudici l'uomo ha definito senza pietà il felino un inquietante guardone. Il gatto matto dorme nel mio letto e per dispetto mangia pure nel mio piatto, non solo mi sporca anche tutto il pavimento. Il gatto matto è molto furbo e attento e quando ho gente a casa mia non sa fare compagnia. Ma che convivenza, ho perso la pazienza, vai fuori di qua. Con arroganza sul ciglio della porta lo tocco, si gonfia, mi graffia, poi scappa, non si fa vedere. Il gatto matto si nasconde per le scale, è testardo e lui lo sa. Lo sa tutta la città che questa notte, nonostante tutto, lui ritornerà. E ritorniamo subito coi piedi per terra, di là dei gatti. E vorrei sentire, sempre al numero verde 800 24 00 24, Stefano da Milano. Pronto? Stefano, eccoci qua. Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti. A te. Allora, io volevo fare solo una piccola considerazione sul discorso delle celebrazioni del 17 marzo per l'Unità d'Italia. Sì. Diciamo, da italiano, esprimere un po' un senso di tristezza nel vedere che appunto questo, che poteva essere un momento importante, fondamentale per un paese come l'Italia, e oltretutto era stato anche preparato bene, perché come sapete a Torino c'è un comitato per l'Unità d'Italia, che l'idea era quella anche di creare un momento che potesse essere anche una riflessione collettiva, no, degli italiani su, diciamo, sui nostri vizi, sulle nostre virtù. Però ecco, mi dico, alla fine, che figlio del suo mal pianga se stesso, cioè non mi riesco a stupire del fatto che adesso tutto questo rischi di naufragare, perché lo vedo come una normale conseguenza del paese in cui viviamo, della situazione politica che abbiamo e del clima che abbiamo. Del resto, perché delle celebrazioni dei 150 anni dell'unità di un paese possono funzionare, ci vuole anche un governo, logicamente, che condivida questa iniziativa. Ora, noi in questo momento siamo da tempo, comunque soprattutto adesso nella contingenza, un governo dove c'è una parte, la parte della Lega, che è una parte tradizionalmente, diciamo, separatista, che si è proclamata antitaliana in miriadi di occasioni, l'altra parte, quella berlusconiana, e l'unica parte, diciamo, che poteva avere il senso un po' dell'unitarietà, del patriottismo, del senso nazionale, era la parte legata più appunto all'ex alleanza nazionale, alla fine si è staccata. Quindi mi sembra normale che accada tutto questo. Io ecco, esprimo solo la mia tristezza, e adesso, al di là di ogni considerazione politica, io vedo questa cosa come un altro triste pegno, tributo che noi paghiamo all'era che stiamo vivendo, governati da Berlusconi, e oltretutto in questo momento tutto è catalizzato sull'ennesima vicenda giudiziaria, e lui strenuamente teso a difendersi. Quindi chi ha tempo di pensare all'unità d'Italia, al risorgimento, alla Repubblica, ai nostri valori fondanti, a capire noi italiani come siamo fatti, perché siamo così, potremmo essere meglio, cioè a tirare fuori il meglio di noi stessi. Noi non c'è tempo in questo momento, cioè si sta tirando fuori il peggio di noi stessi in questo scontro continuo che io continuo a ritenere che sia dovuto all'anomalia di chi ci governa. Chiaro, Stefano. Grazie, Stefano. Poi sentiamo cosa ne pensa anche di questi commenti Giancarlo De Cataldo, sempre in collegamento, il mio opinionista estemporaneo di oggi. Però spazio anche a Anna Rita da Roma. Buongiorno. Buongiorno Anna Rita, stavi pensando? Buongiorno. Sì. Volevo rispondere, se possibile, all'ascoltatore che è andato a vedere il grande Giuliano Ferrara, Diego. Il grande trasformista Giuliano Ferrara, a Milano, penso, sì, in Milano. Esatto. Volevo sapere, hanno detto che Berlusconi dovrebbe continuare o riprendere a governare. Innanzitutto, quando mai ha governato? Quando mai non si è occupato limitatamente solamente dei suoi pensieri, scusate, dei suoi affari? In più volevo sapere, ma farsi processare no? Quindi tutti noi possiamo veramente capire che qualcuno ce l'ha veramente con lui? Per capirlo, perché? E poi per riprendere, se possibile, quello che ha detto Franceschini in un intervento alla Camera, pensa che noi tutti siamo dei cretini, dei beoti, no? Per i quali possiamo credere che la carissima Ruby, lui pensasse veramente fosse la nipote di Mubarak. Perché non ha chiamato l'ambasciatore, il console? Ma possibile che c'è tutto il suo entourage che cerca di difendere l'indifendibile? Io sono veramente stanca. Anna Rita, ti ringrazio. Riprenditi Anna Rita, perché vorrei chiedere a Giancarlo De Cataldo, prima della prossima pausa, tra pochi secondi. Giancarlo, secondo te, visto che è stata respinta dalla Camera, è stata respinta la richiesta di autorizzazione a perquisire gli uffici del ragioniere di Berlusconi, e quindi adesso si fa anche la questione della competenza più o meno della Procura di Milano, comunque quegli atti sono stati respinti alla Procura di Milano con la motivazione che non c'è concussione, perché Berlusconi quella sera a maggio chiamò la Questura di Milano perché effettivamente pensava di poter evitare un incidente diplomatico, e quella era la nipote di Mubarak. Secondo te ci hanno creduto quelli che hanno votato o no? Ma sono due cose distinte, cioè l'atto della Camera riguarda la perquisizione, poi la questione della competenza la si vede in sede. Sì, quella ancora bisogna valutare. Sono due cose diverse, però mi pare di leggere una dichiarazione, la sto leggendo perché sono anch'io collegato, è stato un errore quello di Berlusconi di telefonare alla Questura, questo è Giuliano Ferrara, ma ci hanno fatto sopra una battaglia puritana. È stata una telefonata di cortesia, ci è stato costruito addosso un romanzo per entrare nelle vite degli altri, e siccome ogni uomo ha un punto debole, loro lo sanno, spiano e guardano dal buco della serratura. Quindi in sostanza sembra che Giuliano Ferrara non ci creda alla storia della nipote di Mubarak, dica beh, è stato un errore, ma insomma un errore su quale si possono costruire attività puritane, però come dire, qualche settimana fa lui aveva scritto un bel editoriale, se non ricordo male, nobile, attribuendo la crisi dei valori, la crisi, diciamo, dell'Italia contemporanea, una caduta dei solidi valori tradizionali, la famiglia basata sul matrimonio, Ferrara ha condotto battaglie contro l'aborto, cioè c'è stato, come dire, un rigurgito anche nobile dal punto di vista culturale, in chiave moralistica, che un laico come me potrebbe definire a buon titolo puritano. Oggi termini si sono invertiti nel giro di 15 giorni, quindi puritano. E l'Italia è molto anche creativa dal punto di vista dei termini, dei significati da attribuire. Tra l'altro vedevo che, adesso poi ci fermiamo, perché Paolo Corleone mi dice fermiamoci, intanto c'è il nostro Giorgio De Luca e continua a ricevere le vostre telefonate all'800 24 00 24. Leggevo questa settimana questa storia di un deputato repubblicano del congresso americano, dello stato di New York, che si è dimesso 3 ore dopo che qualcuno si è accorto che lui su un sito internet aveva mandato praticamente una foto del suo torso nudo, e devo dire molto apprezzabile. Questo deputato si chiama Lee, finalmente Chris Lee, finalmente un politico bello, non quelli che si spacciano per belli e vogliono tutte le donne. Questo è veramente apprezzabile, ecco, questo torso nudo. È un deputato conservatore, ha mandato, diciamo, lui sposato con un figlio, ha mandato la sua foto a un'altra, aveva contattato una donna su Facebook. Lei si è resa conto che questo era il deputato, che non era vero che era single, che era prestante, ma sposato con figlio. Immediatamente ha mandato questa foto a un sito di gossip e lui in 3 ore dalla pubblicazione di quella foto si è dimesso. Per dire poco, sono diverse le cose. Ci siete sempre, vero? 800 24 00 24, Roberta Giordano con voi per commentare insieme i fatti della settimana. Sempre in collegamento come opinionista estemporaneo di oggi c'è il magistrato scrittore Giancarlo De Cataldo, col suo ultimo libro I Traditori, questo romanzo sul Risorgimento pubblicato da Einaudi. Molte i vostri spunti, le vostre proposte al numero verde. Volevo chiedere, prima di sentire Tina dalla provincia di Milano, Giancarlo, sai che il 13 febbraio dicevamo c'è la manifestazione delle donne per protestare contro la dignità schiacciata, appunto, del genere femminile, secondo appunto il pensiero delle organizzatrici della manifestazione, se non ora quando. Devo dire che, a parte la raccolta di firme sui siti ma anche su vari quotidiani in questi giorni, è stato molto interessante anche il dibattito che ha ospitato soprattutto il Corriere della Sera, no? Tra donne di diverse estrazioni, di diverse generazioni, ha anche diversi punti di vista sulla questione. Però giustamente dice oggi, sempre sulla prima pagina del Corriere, Barbara Stefanelli dice: al di là di tutto, dice, certamente una manifestazione non può far cadere un governo in Italia, come non lo fanno cadere i magistrati, e sarebbe grave per una democrazia liberale se ciò avvenisse. Però dice, la domanda non è il governo sì, il governo, la domanda è questa, alla quale dobbiamo rispondere: l'Italia ha un problema con le donne o no, secondo te? Ma c'è un problema enorme con le donne. È un paese di cultura maschilista consolidata, contro la quale si combatte in continuazione. È un problema, il vero puritanesimo è proprio nell'espulsione continua delle donne dal mercato del lavoro, nella riduzione dalla politica del tempo pieno scolastico, nel blocco che hanno per l'accesso alla carriera politica, in questa enfatizzazione del ruolo di madre sempre continuamente, ossessivamente riproposto. È una tradizione inveterata, persino, adesso scusatemi, sono fresco di studi e di invenzione risorgimentale, persino le poche figure eminenti di donne del Risorgimento, quando venivano criticate, non lo venivano perché esprimevano delle posizioni avanzate, progressiste, perché si battevano per i diritti della donna, ma venivano attaccate per i loro costumi sessuali, che è una cosa che è sempre, come dire, l'argomento sul quale vai a colpire le donne. Ma infatti, no, tra le altre 100.000 ragioni per andare in piazza, ma scherziamo. Tra le altre cose, io, questo è un tormentone che ho lanciato già mesi fa, insomma, dalla questione da Dario, altre, che al di là di tutto, di chi sostiene o non sostiene, presidente del Consiglio, eccetera, però mi sono chiesta sempre, ho chiesto agli ascoltatori, se ci fosse stata la Merkel, per esempio, al suo posto, se, insomma, ci sarebbero state giustificazioni o meno sulla questione, proprio da un punto di vista al di là dello schieramento politico, ma di genere, sessuale, quindi donna o uomo, non sarebbe stata la stessa cosa, evidentemente, no? Sarebbe stata linciata, diciamo, in pochi secondi. Ma sentirei, a proposito di donne, Tina dalla provincia di Milano. Tina. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, cara Tina. Intanto volevo fare complimento che la sua è la voce più bella di Radio 24. Solo di Radio 24, Tina, è possibile? Solo di Radio 24 la voce più bella, Tina. Ma perché io ascolto quasi solo quello. Come radio, va benissimo. Anche in macchina, ho 2 o 3 stazioni, ma sempre tutte su Radio 24. Molto bene, Tina. Non ho paura di perderla, quindi figuriamo. Grazie. Ecco, niente. Ho chiamato per la storia dei Rom, la faccenda dei Rom, però volevo dire che, insomma, mi dispiace che tutte queste donne si siano accorte, sono andate in piazza a difendere le donne, è ora di finirle, basta, soltanto adesso, quando sono anni che lei vede anche su internet, comunque all'estero, che dicono che solo in Italia Italia esiste una pubblicità così cretina, scandalosa, tutte queste culle e tette ostentate in tutte le salse. Mm. E quindi potevano muoversi prima, secondo me. Cioè, si sono accorti solo adesso? È un po' esagerata questa storia. Beh, può darsi che effettivamente qualche volta prima avrebbero potuto anche mobilitarsi. Comunque. No, ma veramente, perché non esiste da nessuna parte al mondo, insomma, anche tutta sta sinistra. Cioè, hanno fatto loro quella pubblicità con il culo di una ragazza con gli shorts, i jeans, eccetera. E quindi, insomma, proprio sull'unità era uscita questa cosa. Ah. E quindi, come mai? In short, però. Quindi, l'attacco non è alla donna. Era troppo short. Mi dà fastidio. L'attacco è a Berlusconi, punto. Mm. Diciamolo chiaramente. Ecco. Allora, io però volevo dire, sto aprendo una nuova attività, sono una socia in questo periodo, e ho trovato una ragazza rumena. Proprio mi sembra una bella persona, insomma, circa 40 anni, ha sposato un italiano, eccetera. Mm. E eravamo proprio a Milano l'altro giorno e diceva che, insomma, è ora di finirla, ma voi italiani siete dei pazzi a fare i buonisti in questo senso. Diceva la ragazza rumena. Mm. Che in Romania non esiste, perché non possono nemmeno entrare in metropolitana, non le fanno entrare, chi? Ci sono le guardie, non possono accedere alla metropolitana. Ma chi non possono accedere? I Rom, gli zingari, non li fanno neppure entrare. Dice che la loro metropolitana è pulitissima. Il marito diceva, io sono stato quando l'hanno fatta, dopo 4 anni siamo ritornati, era tutta bianca, pulita. Ed è ancora così, è sempre nuova la metropolitana. Beh, non sarà solo colpa di Rom, se è sporca. Vedo gente che butta pacchetti di sigarette e sputa per terra. Ma voglio dire che hanno dei controlli pazzeschi. Questo è un altro paio di mani. Ma quindi, Tina, il tuo intervento era diciamo riferito a quella frase di Tiziana Maiolo dei giorni scorsi, che ha fatto questo paragone. Cosa c'entra? Beh, la Maiolo, che tra l'altro, insomma, va un po' a destra e a sinistra, si è permessa anche di sputanare la Moratti, quando io la ritengo un sindaco ancora tra le migliori, insomma, onestamente, anche perché tutto è sempre perfettibile, però insomma, ecco, voglio vedere, se andiamo a ritroso nel tempo, non mi sembra che gli altri abbiano fatto molto meglio. Grazie Tina, a proposito di sindaco di Milano, che a breve insomma si dovrebbe votare appunto per le amministrative per il nuovo sindaco di Milano, credo che Moratti appunto si dovrebbe ricandidare. Poi sentiamo Francesco da Roma, anche se Francesco, se mi permetti un secondo, anche se siamo un po' troppo vicino alla viabilità, dovevo contattare un ascoltatore che mi aveva detto se facevamo ascoltare proprio i primissimi passaggi dell'editoriale di Travaglio su Facebook, me l'aveva chiesto, sapete che c'è la pagina dedicata Non ci sono più le mezze stagioni, facciamo sentire. Maurizio Gasparri è durissimo, non mi interessa sapere chi frequenti abitualmente il presidente e se si trovi in contesti in cui l'uso di cocaina è abbondante, tralasciando gli stili di vita personali sui quali ciascuno potrà farsi un'opinione, è evidente che ha subito un ricatto, non l'ha denunciato la magistratura e ha mentito negando l'evidenza dei fatti. Il suo partito dovrebbe interrogarsi sulla sua crisi morale senza aggiungere lesioni gravi alla situazione fra il grottesco e il drammatico che si è già verificata. Riteniamo che l'epilogo di questa vicenda debbano essere le dimissioni e l'immediato ricorso alle urne. Stiamo valutando passi formali a tutela della legalità repubblicana e della democrazia. Anche Francesco Storace è ferocissimo col Presidente. Si sottragga responsabilmente a una vicenda molto triste e nel rispetto della legge elettorale ci porti subito alle urne. Gaetano Quagliariello denuncia: l'elemento fondamentale non è quello della sua vita privata, ma se ha violato la legge, se ha ceduto a un ricatto o no. Se sì, è questo l'elemento che non consente di continuare a occupare incarichi pubblici. Perciò avrebbe fatto bene a dare le dimissioni, sarebbe stata una scelta di dignità. Ma che sono impazziti i fedelissimi di Berlusconi che chiedono le dimissioni di Berlusconi? No, queste sono dichiarazioni di un anno e mezzo fa e non riguardano Berlusconi, ma Piero Marrazzo. Marrazzo, diversamente da Berlusconi, non era accusato di alcun reato, era solo in compagnia di un trans, Nathalie, brasiliana, e non si sa nemmeno se ci avesse fatto sesso, comunque si trattava di due adulti consenzienti. L'unico reato lo avrebbero semmai commesso quei tre carabinieri che fecero quell'irruzione illegale nell'alloggio di Via Gradoli armati di una videocamera e poi lo ricattarono con quel filmino. Diamo un attimo un'occhiata anche alle agenzie, le ultime che arrivano in tempo reale, che riguardano anche l'estero, non soltanto i fatti nostri. 800 24 00 24, Roberta Giordano sempre con voi. L'autorità nazionale palestinese ha annunciato oggi che si terranno entro settembre elezioni presidenziali e legislative, lo affermano fonti ufficiali palestinesi. Qualcosa, il mondo arabo comincia a muoversi, poi vedremo anche qui come proseguiranno le cose, vedremo in Egitto se effettivamente c'è il rischio di una deriva islamica integralista oppure no. Insomma, sono tante le cose a cui prestare attenzione, ovviamente, però noi spesso ci concentriamo ovviamente su quelli che sono i temi che sollevate voi, così più più interessate a alcune cose piuttosto che ad altre. Francesco da Roma, quindi. Francesco, scusami. Prego, prego. Senta, allora io, sì, mi chiamo Francesco, appunto, voglio innanzitutto premettere che a me del berlusconismo non piace niente, proprio niente di niente, tantomeno questa nuova società che ha proposto lui, cioè veramente non solo lui, tutta basata sull'avidità, sull'arricchimento, sul consumismo, sull'uso, una cosa proprio indecente per me. E non mi piace affatto, insomma, che il nostro Presidente del Consiglio faccia questi ridicoli festini con quell'altro vecchietto di Rete 4, insomma, beh, è una cosa un po' bruttarella, su, diciamoci la verità. Ecco, questo senz'altro. Però a me che venga indagato per concussione è una cosa che sinceramente mi fa paura. Io spero che Berlusconi perda le prossime elezioni, che l'Italia volti pagina, che vada verso una società più equa, più giusta e più seria. Ma che una magistratura possa inquisirlo per una cosa che qualsiasi uomo che abbia un po' di potere in Italia ha già fatto, perché in fondo questo che ha detto la polizia: guardate, questa ragazzina non c'è problema, non sfuggirà alle sue eventuali responsabilità per il furto, fatela uscire e via, no, perché questo ha fatto, cosa che chiunque in Italia ha fatto. Ora, l'idea che uno appunto possa essere perseguitato, condannato per questo, dici, non ti sembra normale, a me fa paura. Francesco, e sentiamo quest'Italia, mi faccia finire, proprio quest'Italia. Prego. È quella che ne so ecco, lui si salverà perché lui è un potente, va bene, però con la stessa logica, se questi vengono al laboratorio mio, che io gestisco con la massima onestà, io mi faccio risparmio pure sulla carta igienica, perché non no, mi sulla carta igienica no, cose dello Stato, no? Vabbè, non ne spreco quanto tanti altri, la carta, la giusta che serve, però sono sicuro che se occasione. Mi mettono lì con la lente da pignolo di questa giustizia nostra, che è proprio rimasta, direi, alle grida manzoniane, sono sicuro che anche a me mi rovinano. Quindi, sinceramente, Francesco, questo accanimento di volerlo incastrare è chiarissimo, perdonami, abbiamo veramente pochi minuti, lo sai che comincia a venirmi l'ansia quando mi dicono attenzione stiamo chiudendo. Giancarlo De Cataldo, proprio riesci a fare una battuta, una tua opinione su quello che ha detto l'ascoltatore, ma proprio breve, perdonami. Beh, ci sono voluti 20 anni per destrutturare, distruggere l'immagine della giustizia. Io penso che ci vorranno tantissimi per recuperarla, perché le parole di questo ascoltatore sono emblematico di un mondo in cui le guardie, come si chiamano in mezzo alla strada, no, a Roma, le guardie stanno lì occhiute per rompere le tasche alla gente, qualunque cosa abbiano fatto, anzi soprattutto se non l'hanno fatto. È una visione davanti alla quale uno non può far altro che rimboccarsi le maniche e cercare di recuperare, lavorando bene giorno per giorno, cercando di spiegare pazientemente che le cose non stanno così, che nessuno viene nel tuo laboratorio per il gusto perverso di perseguitarti, nessuno intercetta la portiera o il salumaio perché delle telefonate ha tagliato troppe fette di salame, una un po' così ossidata, non gliene frega niente. Ma è difficilissimo, perché noi da 20 anni siamo invasi, investiti da una narrazione, da un racconto che ci deforma la mente. Beh, Giancarlo, allora, mentre ricordo il numero verde 800 24 0024, per le vostre libere opinioni, subito, mentre tu pensi a una conclusione tra pochi minuti che hai voglia così di offrirci, io direi, galoppando andiamo verso Stefano Andreoli, il creatore di Spinoza.it, il blog satirico più cliccato del West, direi. Stefano Andreoli, vuoi farci un'istantanea di questa settimana con il tuo buongiorno, solito garbo? Buongiorno, Roberta, caro Stefano. Buongiorno. Beh, diciamo che non si può che partire con l'Egitto, ovviamente. Mubarak alla fine, dopo lungo penare, si è dimesso. Sì, infatti, yeah. E non si può che commentare, dopo i tumulti in Tunisia, ora le dimissioni di Mubarak. Io mi sento un po' come se avesse vinto al Superenalotto il mio vicino di casa, cioè è una situazione un po' strana qui in Italia con cui dovremmo fare i conti. Quando vince il Superenalotto facci sapere, poi. Esatto, ora in Egitto il potere è in mano alle forze armate. Sì. Io faccio un parallelo con l'Italia, pensate un po', non so se dovremmo augurarci anche noi, perché immaginate che cade Berlusconi, il potere alla russa. Ecco, credo che forse dovremmo riflettere su questa eventualità, ma parliamo d'altro, sempre di Berlusconi di recente, anche per quanto si possa parlare d'altro, sempre Berlusconi c'è in mezzo, si è parlato di recente... C'è il chiodo 41, fisso, c'hai, sì. Esatto, sì, un po' come Berlusconi, ma è diverso. Articolo 41 della Costituzione, sembra che la Costituzione ostacoli le attività imprenditoriali. come per esempio comprarsi l'Italia. Ecco, questo articolo ognuno a seconda delle proprie potenzialità. Sì. È pronta la riforma dell'articolo 41 che dirà gli altri articoli sono annullati da questo. Ecco, un sistema, un trucco per riformare la Costituzione. Riassuntivo, sì. Esatto, incontro poi Marchionne e Berlusconi sempre su questi temi, si sa si è parlato ancora di Stati Uniti, Marchionne e Berlusconi si vedranno, poi scapperanno insieme a quanto capito. Un idillio. Anche se per motivi diversi. Tutti i gusti sono gusti, sì. Marchionne di recente ha dichiarato, criticando il modo di lavorare italiano, in Italia si parla e negli USA si fa. Questo ha detto Marchionne, ha detto negli USA si fa, e a Mirafiori lo mandano a fare, in effetti, già da molto tempo. Procedi, concludiamo. Un paio di frecciate, l'ultimo intanto, vabbè. Manifestazione delle donne, se non ora quando, per la dignità delle donne, manifestazione lodevole, non si fa che parlarne. Tu cosa ti metti? Ma non so ancora, insomma, questa... adesso il solito beso al maschilista, poi sì. Maschilista, chiudo. Chiudi, che meglio. Notizia vera: si ritrova un film porno, ma aveva comperato un cartone animato. Si ritrova un film porno, questo è un fatto vero. Sì. Purtroppo non convince la nuova linea difensiva di Ghedini. Molto bene, grazie Stefano Andreoli, via con la mannaia della censura. È sempre troppo tardi, ma meglio tardi che mai. E adesso invece pacatamente, anche se molto velocemente, ce ne andiamo dalla Valeria della Valle, alla quale voglio sottoporre come linguista della Sapienza di Roma il termine questa settimana golpe, perché è stato sia usato in Egitto per Mubarak, sia il Presidente del Consiglio italiano ha detto questo è un golpe morale a proposito di quello che sta succedendo con la magistratura, eccetera. Sì. Allora, vediamo da dove viene la parola. La parola viene naturalmente dalla lingua spagnola e in particolare dall'espressione golpe de Estado, cioè colpo di Stato, e quindi alludendo specialmente a un colpo di Stato militare. E la derivazione dallo spagnolo si spiega col fatto che i colpi di Stato erano frequenti, soprattutto nel passato, nei paesi di lingua spagnola, e così abbiamo ereditato anche la parola, che poi è stata dimezzata solo in golpe. Ora, la parola si è diffusa in Italia e direi che non è mai passata di moda a partire dagli anni 60 e poi nel 70 ha avuto un momento di particolare popolarità all'epoca del cosiddetto golpe di Edgardo Sogno e queste cose così, sì. Quindi nel 70 proprio quella del attribuito al principe borghese, sì. Ma da ieri l'altro, come tu hai ricordato, abbiamo anche un nuovo tipo di golpe, cioè il golpe morale. Insomma, direi, per concludere, sì, come sempre in maniera non troppo pessimistica, una dimostrazione del fatto che la lingua si arricchisce sempre di novità, anche di quelle più imprevedibili. Grazie Valeria della Valle. Grazie, che noi siamo piuttosto imprevedibili, ma non con i tempi. Giancarlo De Cataldo, abbiamo 16 secondi per una tua conclusione, un tempo straordinario. Giancarlo. Speriamo che ci sia un nuovo risorgimento, che riusciamo a farlo tutti insieme. Grazie, tutti insieme appassionatamente, grazie, molto sintetico Giancarlo De Cataldo, e grazie per la comprensione. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.